Marlene Dietrich, l'osannata interprete della peccaminosa Lola Lola dell'Angelo Azzurro, un film di Joseph von Sternberg del 30, tratto dal romanzo di Heinrich Mann, fratello di Thomas, un romanzo che nel 1905, a dire il vero, prima di farsi trascinare dalla notorietà del film, era ancora intitolato Il professor Unrat o la fine di un tiranno. Se non vado errato, Carlo, un rat voleva dire mondezzaio. Sporcizia. Ma se ne parla nel romanzo, povero uomo. Sì. Marlene si chiamava ovviamente Maria Maddalena. Nome biblico, anzi evangelico, nome al quale peraltro era sempre rimasta legata una mia curiosità. Mi riferisco al Vangelo di Giovanni, paragrafo 20, dal versetto 12 al versetto 15. Dunque, Gesù è risorto e gli amici si chiedono dove diavolo sia. Maria Maddalena, che a suo tempo, grazie all'intervento benigno del Salvatore, si era liberata dei ben 7 demoni che l'albergavano, è lì che piange presso il sepolcro. Ad un dato momento si accorge di 2 angeli seduti, presumibilmente in modo ben diverso da come si sarebbe seduta Marlene Dietrich quando sarebbe toccata a lei fare l'angelo. Questi le chiedono perché piange, e lei risponde, che piange perché hanno tolto il suo Signore e lei non sa dove l'abbiano sistemato. Occhio e croce, già qui parrebbe evidente che alla resurrezione la fanciulla ci creda pochino. Risposto agli angeli, comunque, Maria Maddalena si gira e si trova davanti un tizio che le dice: «Perché piangi? Chi cerchi?» A questo punto, e qui sta il punto, dicevamo, le dice: «Scusa, ma se l'hai portato via tu, dai, dimmi dove l'hai messo, io me lo vado a prendere!» Che costui al quale sta parlando sia Gesù stesso non le passa manco per l'anticamera del cervello. Lei dice: «Qui sta il...» Lo prende, pensa, lo annota Giovanni, che lo prende, si sbaglia di persona e lo prende per l'ortolano. Ora, sia che ci vedesse poco, sia che Gesù comprensibilmente avesse una brutta cera, ora il fatto di prendere per l'ortolano è veramente un fatto che mi ha sempre incuriosito. Ma perché proprio per l'ortolano? Anni dopo, come per le profezie di Nostradamus bisogna saper aspettare, qualche nodo viene al pettine. Allora, la città, la nostra città, Milano, è disseminata di inviti a cambiare mela. Lasciare la mela anonima, vecchia e malata, per passare alla mela del Sud Tirolo, mela evidentemente sana e tedesca, sulla linea ideologica dei tempi, tanto da averci un nome proprio. Come già le scope si chiamarono Pippo, le automobili Clio, la carta igienica Ilaria o la sonda spaziale si chiamò Clementina, questa mela si chiama Marlene. Marlene. Così la mela vorrebbe recuperare quel carattere di tentatrice che dal Genesi in poi, diciamo la verità, era andato inesorabilmente scemando. E lo fa passando per Maria Maddalena, che in quanto liberata dai 7 demoni ha un pedigree di tutto rispetto, e finendo su Marlene, che in quanto Lola Lola Angelo Azzurro, in quanto a perdizione dava almeno un tempo le sue belle garanzie. Così soprattutto mi torna più chiaro quell'antico qui pro quo di cui racconta l'Evangelista Giovanni. Maria Maddalena, prossimamente in arte Marlene, prossimamente sul mercato mela, almeno inconsciamente, non poteva che aspettare il suo ortolano.